Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi parliamo del libro che ha vinto il premio Strega 2012, Inseparabili, il fuoco amico dei ricordi, scritto da Alessandro Piperno e pubblicato da Mondadori. È la seconda parte di un dittico iniziato nel 2010 con Persecuzione. Così ce ne parla l'autore in una delle rare interviste che ha rilasciato. Il progetto originario di Persecuzione, di Inseparabili, che sono appunto questi due romanzi che compongono il dittico, Il fuoco amico dei ricordi, sono stati concepiti insieme come un unico libro. E soltanto successivamente, quando li ho visti esplodere, ho deciso che era più sano e in qualche misura anche più affascinante dividerli. Devo dire che Inseparabile, cioè il libro che è uscito dopo, è stata la prima fiamma che si è accesa qualche anno fa, e che Persecuzione invece è una costola di quel libro, quindi, come dire, paradossalmente ho pubblicato per primo il libro che ho scritto per secondo. Il fatto che si sia frapposto del tempo, anche se del tempo editoriale, cioè un anno e mezzo circa dall'uscita del primo all'uscita del secondo, diciamo, è come se quel tempo lì fosse una sorta di corrispettivo del tempo romanzesco. Passano da un romanzo all'altro più o meno 20 o 25 anni e quell'anno e mezzo lì copre quella distanza. Quindi, come dire, chi è entrato nel mio gioco si è divertito. Il lettore si ritrova con personaggi familiari che già conosce, però possiamo sicuramente dire che si può leggere Inseparabili anche senza aver letto Persecuzione. Insomma, si può anche invertire l'ordine. Sì, il gioco era anche quello, tenendo conto che appunto, sebbene io attribuisca un valore estremamente serio a quello che faccio, credo che poi c'è nel mio mestiere qualcosa che ha a che fare con il gioco. Il gioco inteso come quello dei bambini che organizzano la città dei Playmobil o di Big Jim o di Barbie, insomma, il gioco è esattamente lo stesso. Ci vuole un'infinita immaginazione e anche una grande generosità nella capacità di immedesimazione. Quindi credo che come dire, che la creazione letteraria abbia a che fare con questa idea del gioco. E il gioco qui era anche il riuscire con delle soluzioni eleganti a fare due libri che avessero un ordine cronologico, ma che in realtà potessero essere letti anche in modo invertito. Ma questo è un gioco che tu fai con i lettori o lo fai così per tuo divertimento? Ma devo dire che io mi sforzo il più possibile di non pensare mai ai lettori. Cioè, l'unico lettore a cui penso è un lettore che è la mia replica precisa, insomma, uno che mi somigli. Quindi devo intrattenere me stesso, no? Più che il lettore. E probabilmente se pensassi di più al lettore, probabilmente sarei uno scrittore che sarebbe più in grado di intrattenere il pubblico, laddove invece di solito il pubblico, diciamo, trova quello che scrivo estremamente controverso, insomma. Tu racconti sempre storie di famiglie, analizzi le dinamiche familiari, l'hai fatto nel tuo primo libro e poi appunto in questo dittico. In Persecuzione c'è la storia di Leo Pontecorvo, il capofamiglia che viene accusato di molestie sessuali nei confronti di una ragazzina, insomma la fidanzatina del figlio. In questo secondo romanzo, in questo terzo romanzo in realtà Inseparabili, sono più protagonisti i due fratelli. Vogliamo descrivere un po' questi due fratelli? Il rapporto che c'è fra loro due? Io amo molto lavorare sui personaggi e, come dire, ci lavoro in un modo un po' all'antica, nel senso che mi piace prendere il mio tempo, mi piace descrivere ogni rivolo e ogni nuance del loro carattere, quindi insomma per me era estremamente importante lavorare su questi due protagonisti. È una tecnica che sostanzialmente utilizzo, anche se lo faccio in modo, diciamo, istintivo, è quella di regalare ad ognuno una parte di me. E tendenzialmente questi due fratelli, sebbene siano estremamente alternativi l'uno all'altro, siano quasi antitetici, perché uno è grosso, è indolente, spaccone, sessuomane, grande mangiatore, eccetera, mentre laddove invece l'altro è più magro, stitico, sensibile, eccetera, e quindi sono antitetici. In realtà, come dire, rappresentano in modo abbastanza fedele i due poli della mia strana e contraddittoria personalità. Ed entrambi ho affidato, diciamo, delle cose che mi riguardano, il successo casuale di Filippo e la gestione dissennata del medesimo, i fallimenti sentimentali e professionali di Samuel e la sua, come dire, il suo risentimento e la sua attitudine all'autoflagellazione, la sua irresolutezza, insomma, è qualcosa che ritrovo perfettamente in me, quindi diciamo che ho lavorato su me stesso per metterli in scena. Prima tu citavi il successo, tu sembri vivere un po' male il successo da scrittore, alcuni tuoi colleghi o i giornalisti, qualcuno ti definisce antipatico o snob, in qualche modo non frequenti certi ambienti così. Io che ti ho conosciuto ti trovo una persona assolutamente deliziosa, coltissima, con cui poter parlare di tutto e soprattutto che sa ascoltare anche gli altri. Perché allora hai nel mondo dell'editoria questa fama di scrittore così, un po' snob, che sta sulle sue? No, innanzitutto ti ringrazio, come dire, del giudizio straordinariamente benevolo, anche se temo che tu ti sbagli, diciamo, sul mio conto. Beh, tendenzialmente non amo molto frequentare gli ambienti letterari, conosco troppo bene i miei sentimenti, che sono dei sentimenti complessi nei confronti dei miei colleghi, che mescolano risentimento a complesso di superiorità. Li conosco talmente bene da sapere che gli stessi sentimenti evidentemente albergano nei loro cuori, quindi preferisco per frequentare persone, diciamo, alternative a quell'ambiente lì. Può essere che questa cosa qui abbia creato, come dire, dei misunderstanding nel corso della mia, peraltro, breve carriera. Una cosa è certa, io non amo l'incontro pubblico in nessuna sua forma, perché lo considero sempre estremamente finto ed ipocrita, insomma. Credo che il problema che c'è un po' la narrativa, non solo nel nostro paese, ma come ho visto un po' ovunque, è il fatto che si prende troppo seriamente quello che dicono gli scrittori e poco seriamente quello che scrivono, insomma. Nei tuoi romanzi c'è spesso il sesso, però vissuto in maniera problematica. Nel precedente romanzo, appunto, addirittura si parlava di molestie sessuali. In questo uno dei due fratelli vive in maniera problematica la sua identità sessuale e il suo avvicinarsi alle donne. Trova una compagna con la quale in qualche modo stare vicini, però fare un sesso, ecco, tutto particolare, diciamo così. Non togliamo poi il gusto al lettore di scoprirlo in che modo hanno questi tipi di rapporti. Perché per te il sesso è sempre così problematico nei tuoi romanzi? Non so che dirti. Potrei dire, insomma, che è così problematico perché lo vivo così anch'io, insomma, cioè perché è qualcosa che mi riguarda. Però, diciamo, non voglio dirlo. Diciamo così, che credo che sia successo qualcosa. Non voglio fare del sociologismo spiccio, però credo che sia successo qualcosa nel corso dei decenni, in quella che possiamo ritenere una sorta di rielaborazione che è venuta dopo la rivoluzione sessuale. Naturalmente in tutto questo c'è qualcosa di estremamente, non so come dirti, affascinante, euforizzante, no? Cioè l'idea della libertà, il fatto che non possiamo andare con chi ci pare quando vogliamo e che un ragazzo giovane o una ragazza giovane possano andare a letto insieme senza che ci sia la sanzione sociale che ci sarebbe stata anni fa. Tutto questo, ripeto, è una... Però, come dire, come spesso avviene, tanta libertà la paghi con un po' di divertimento, con la mancanza di divertimento. Ho la sensazione che il post-rivoluzione sessuale abbia lasciato degli uomini, soprattutto, perché è una cosa che riguarda soprattutto gli uomini, poi la cosa che conosco meglio, che oscillano tra una compulsione sessuale insensata e l'impotenza. L'impotenza che viene dal fatto che ormai se il sesso perde mistero è una cosa estremamente poco interessante. Io sono... affascinato, estremamente affascinato dall'impotenza sessuale maschile, e perché la trovo estremamente tenera, la trovo estremamente tenera ed estremamente drammatica. È qualcosa che mette seriamente in discussione la tua identità. E questo era Alessandro Piperno, diventato famoso nel 2005 con il romanzo Con le peggiori intenzioni e ora Premio Strega 2012 con Inseparabili, il fuoco amico dei ricordi, pubblicato da Mondadori. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.